Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ascoltatrici, cari ascoltatori, quelle che avete sentito per questo inizio settimana sono le tante ragazze rapite in Nigeria, vi ricordate? Circa 300 studentesse strappate alle scuole perché secondo questa organizzazione estremistica Boko Haram non devono studiare, devono essere date in sposa oppure come schiave sessuali. Bene, qui le avete sentite in un nuovo video che ha diffuso oggi il leader di Boko Haram, in cui pregavano un po' in modo robotico perché dicono sono state convertite all'Islam. Ci sono delle novità che le riguardano, speriamo soprattutto positive. Di questo parleremo senza dubbio, poi come al solito ci sono tantissimi temi, c'è purtroppo anche una tragedia dell'immigrazione, ma c'è anche la politica, poi ci sarà un ospite tra i più prestigiosi, ne abbiamo avuti tanti, qui a Effetto Note, ci sarà, se non ci sono problemi, anche Romano Prodi, con lui parleremo in particolare di questo tema, visto che è stato esperto anche di questioni africane. Ma come sempre ci sono anche due canali per i vostri commenti, le vostre opinioni, osservazioni, c'è la pagina Facebook di Effetto Note, sempre a vostra disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24, oppure quando sono in diretta con voi il numero per i messaggi che è il 349-238-6666, cioè gli sms. Ma adesso come sempre iniziamo la settimana, iniziamo a raccontare anche che giornata è stata. Expo, Renzi dice ci metto la faccia, intanto nomina Cantone a capo della task force anticorruzione e conferma la fiducia al commissario dell'esposizione Sala. Oggi le prime ammissioni degli arrestati. Immigrazione, affonda un barcone a sud di Lampedusa con 440 persone a bordo, almeno 14 morti, 200 i dispersi. Alfano dice l'Europa non ci aiuta. All'Italia, Palazzo Chigi annuncia importanti contatti con la compagnia araba Etihad. Riforme, Berlusconi ci ripensa, Renzi ha tradito la riforma del Senato, dice è un pasticcio e fa campagna al sud. Crisi ucraina, l'Europa decide nuove sanzioni e Mosca minaccia di tagliare il gas a Kiev. Le studentesse rapite in Nigeria, in un video il gruppo integralista Boko Haram propone di scambiarle con i prigionieri appartenenti al gruppo. Ultra, alla Roma multa di 50.000 euro per i cori dei suoi tifosi contro i napoletani e gli striscioni in favore dell'Ultra De Santis durante la gara con la Juve. Partiamo quindi dall'inchiesta sull'Expo dopo i nuovi arresti della scorsa settimana. No, ricordate, abbiamo parlato tanto. Il presidente del Consiglio Renzi nomina Cantone, che è attuale presidente dell'autorità anticorruzione, come garante della trasparenza e della legalità dell'esposizione mondiale 2015 e ribadisce la sua piena fiducia al commissario di Expo, Sala, che oggi è riferito in commissione antimafia. Matteo Renzi blinda l'Expo, prima sceglie Cantone, capo dell'autorità anticorruzione, come garante della manifestazione, poi davanti alle telecamere spiega l'Expo è una grandissima opportunità, io preferisco perdere qualche punto nei sondaggi piuttosto che fermare questa occasione di investimenti per l'Italia. Si fermano i delinquenti ma non i lavori, aggiunge il Presidente del Consiglio. I lavori vanno avanti, spiega intanto in commissione antimafia il commissario all'Expo Sala. La procura ad oggi ci sta dicendo di andare avanti sulle gare così come sono state assegnate. Mai parlato con i personaggi dell'inchiesta, aggiunge Sala, quanto a Paris, direttore generale dell'Expo, mi fidavo di lui. Posso a testa alta e in maniera inconfutabile dire una cosa, io non ho mai assunto una persona che mi sia stata raccomandata politicamente. Per l'Expo sono attesi 20 milioni di visitatori, dice ancora il commissario Sala. L'evento tra pubblico e privato costerà 1.350 milioni, ma sono investimenti che rientreranno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E più tardi sentiremo anche quali sono poi gli aggiornamenti su relativi agli interrogatori degli arrestati. E ora l'inchiesta che ha portato invece all'arresto dell'ex ministro Claudio Scajola. Fatemi tornare in Italia. Questa è stata la richiesta di Chiara Rizzo, moglie di Amedeo Mattacena, arrestato ieri all'aeroporto di Nizza in seguito all'ordine di custodia cautelare internazionale emesso dal GIP di Reggio Calabria che oggi l'ha interrogata. È stata trasferita nel carcere di Marsiglia in attesa che i giudici francesi decidano sulla sua estradizione. Chiara Rizzo, la moglie di Amedeo Mattacena, raggiunta da un ordine di cattura internazionale, era stata fermata la scorsa domenica in arrivo dagli Emirati Arabi. Accusata di aver favorito la latitanza del marito riparato a Dubai dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, la donna è stata interrogata dal procuratore generale al quale ha chiesto fatemi tornare in Italia, ma per ora non se ne parla almeno fino al prossimo mercoledì. Intanto in Italia gli investigatori della DIA sono all'opera per spulciare le centinaia di carte sequestrate a Claudio Scajola. L'ex ministro pare abbia puntato ogni particolare della sua vita politica. Il tutto è rinchiuso in decine di faldoni in viaggio verso Reggio Calabria. I magistrati non negano che dietro l'appoggio a Matacena vi siano personaggi influenti e poteri forti ancora da svelare, e su tutto l'ombra dell'Andrangheta. Molti punti ancora scuri, non ultimo quello relativo a un conto corrente aperto presso la tesoreria della Camera dei Deputati, un conto sul quale potrebbero essere transitati i soldi trasferiti a Matacena durante la latitanza. Di quel conto parlavano non più tardi di 3 mesi fa Chiara Rizzo e l'ex ministro durante una conversazione intercettata dalla DIA. Anche su questo dovrà rispondere Scajola, che sarà interrogato nei prossimi giorni, probabilmente mercoledì. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi anche Marcello Dell'Utri è stato interrogato in procura a Beirut, in Libano, dove si è rifugiato. L'ex senatore di Forza Italia ha sentito per 1 ora e mezzo e è tornato in ospedale, dove è ricoverato in stato di detenzione. Interrogato stamani per 1 ora e mezza negli uffici della Procura Generale di Beirut, Marcello Dell'Utri, nell'ambito delle procedure riguardanti la richiesta di estradizione. L'ex senatore di Forza Italia è arrivato a Palazzo di Giustizia dall'ospedale, dove è ricoverato in stato di detenzione. Ora che Dell'Utri è stato sentito, la Procura Generale può inviare un rapporto con le sue valutazioni al Ministero della Giustizia. Sarà quest'ultimo, insieme con il Primo Ministro, a dover prendere la decisione finale. L'eventuale decreto di estradizione dovrà essere poi firmato dal Presidente della Repubblica Libanese. Al termine dell'interrogatorio, Dell'Utri è stato portato via ammanettato su un'ambulanza per rientrare nell'ospedale nel quale è detenuto. In attesa della decisione finale sull'estradizione, il Procuratore Generale può decidere in qualsiasi momento di trasformare la detenzione in altre misure. L'avvocato libanese dell'ex senatore di Forza Italia non esclude, infatti, la possibilità di arresti domiciliari. Giuseppe Carlomagno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tocca parlare di una nuova tragedia dell'immigrazione che è venuta al largo di Lampedusa, dove è naufragato un barcone con a bordo 440 persone. Le nostre navi sono lì a soccorrere i superstiti e a recuperare i morti, ha detto il ministro dell'Interno Alfano, ma l'Europa, ha aggiunto, non ci sta aiutando. L'ennesima tragedia sulla rotta del mare, la seconda in 48 ore. Un barcone con a bordo circa 400 migranti è naufragato al largo della Libia a 100 miglia da Lampedusa. 14 morti recuperati, ma il numero è purtroppo destinato a crescere, 210 quelli tratti in salvo. Le autorità marittime italiane sono state informate dall'equipaggio di un rimorchiatore al servizio di alcune piattaforme petrolifere, e sul posto sono arrivate unità navali dell'operazione Mare Nostrum e alcuni mezzi mercantili che stanno lavorando senza sosta. Ieri un'altra imbarcazione era naufragata al largo delle coste libiche, provocando la morte di almeno 40 migranti. Ennesima strage ed ennesime polemiche. L'Europa non ci sta aiutando, dice il ministro dell'Interno Alfano. Le nostre navi sono lì a recuperare morti, a soccorrere i vivi. L'Europa si faccia carico almeno di accogliere i vivi. C'è un deficit di cooperazione a livello europeo, dice il ministro della Giustizia Orlando, mentre per il ministro degli Esteri Mogherini episodi come quelli di ieri e di oggi non sono sostenibili. La Commissione europea, dal canto suo, si dice scioccata dalla nuova tragedia e chiede a tutti gli Stati membri di dimostrare solidarietà. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Anche di questo poi parleremo, però intanto occupiamoci di Alitalia. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi importanti contatti tra le due compagnie, cioè Alitalia e Etihad, quanto annuncia Palazzo Chigi dopo il vertice con azionisti e banche, anche se è una storia che va avanti da un po', vedremo quando arriva a conclusione questo accordo con Etihad. Andiamo all'estero e parliamo di Nigeria. Il governo nigeriano ha fatto sapere che non pagherà per il rilascio delle liceali rapite e non libererà i prigionieri appartenenti al gruppo integrale lista islamico Boko Haram, come richiesto invece oggi in un video dal leader Shekau. Pregano inginocchiate a terra in un luogo non riconoscibile. I loro volti sono incorniciati dal kimar, un velo che copre il corpo ma non il viso. Sono le liceali rapite a metà aprile nel nord-est della Nigeria dagli integralisti islamici di Boko Haram. Il video di 17 minuti è stato diffuso dal capo del gruppo Shekau, che in tenuta militare con un Kalashnikov sulla spalla si dice pronto alla liberazione. In cambio il governo nigeriano deve scarcerare i prigionieri appartenenti al gruppo estremista. Le ragazze ora sono libere perché sono diventate musulmane, afferma Shekau. A un certo punto a parlare sono proprio le liceali. Due confermano di essersi convertite all'Islam. Il governo locale però ha fatto sapere che non pagherà per il loro rilascio né libererà i prigionieri, come richiesto dal leader integralista. Il governatore dello stato nigeriano del Borno ha detto di avere informazioni sul luogo in cui si trovano le oltre 200 nigeriane rapite. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per le notizie dall'estero, anche aggiornamenti sulla crisi ucraina. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno deciso nuove sanzioni per Mosca, che intanto minaccia di tagliare il gas a Kiev. I 28 hanno annunciato questo pomeriggio nuove sanzioni contro la Russia, accusata di ingerenza nella gravissima vicenda ucraina. Per la prima volta i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno deciso di colpire anche entità giuridiche e non solo persone fisiche. Si tratta certamente di un inasprimento della strategia comunitaria all'indomani di un referendum nell'Ucraina orientale sull'annessione della regione alla Russia. Il paese è in piena guerra civile e ormai il rischio smembramento è molto reale. I 28 hanno minacciato nuove sanzioni se Mosca dovesse influenzare in un modo o nell'altro le prossime elezioni presidenziali del 25 maggio. Finora l'idea di sanzioni economiche di ampio respiro sono state molto controverse, tanto che proprio oggi la Francia ha confermato che intende consegnare comunque porta elicotteri Mistral alla Russia. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ora ritorniamo in Italia con la politica. Silvio Berlusconi frena sulle riforme e i 5 Stelle invece chiedono il rinvio del decreto lavoro. Sarà per necessità di campagna elettorale, sarà perché è stato violato il patto del Nazareno. Ma Silvio Berlusconi decide di strappare sulle riforme. Il Cavaliere adduce come giustificazione le decisioni del governo sul decreto IRPEF, ovvero gli 80 euro ai dipendenti con reddito al di sotto dei 26.000 euro e nulla per i pensionati. Berlusconi ritiene quindi di non poter seguire la strada delle proposte come la riforma del Senato e anche sulla legge elettorale continua, hanno cambiato l'accordo mettendo il ballottaggio, una cosa inaccettabile. Che Forza Italia sia da sempre contraria al doppio turno è cosa nota, ma Berlusconi entra nel vivo anche della riforma del Senato, è un pasticcio, abbiamo votato un ordine del giorno con i punti che vorremmo noi, ovvero quello a firma di Roberto Calderoli sul Senato elettivo. Il Cavaliere quindi precisa, siamo persone responsabili, abbiamo votato anche il testo base del governo, ma avverte nel percorso in commissione il testo cambierà moltissimo. Dal Movimento 5 Stelle invece si chiede il rinvio del decreto lavoro in commissione alla Camera. Si è appena conclusa la discussione generale in aula e sul provvedimento è in arrivo la fiducia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è un'ascoltatrice, ascoltatore che gli sms al 349-238-6666 mi chiede e mi conferma che il Movimento 5 Stelle voglia sfiduciare Alfano per il caso Shalabayeva dell'Utri e caso Ultra. Dunque, il caso Shalabayeva, sì, c'era stata la richiesta di sfiducia, ma mi sembra una cosa che faccia parte ormai, per quanto riguarda anche le priorità del Movimento 5 Stelle, del passato. Sul caso Ultra sì, e sul caso dell'Utri non, insomma, non mi ricordo se c'è anche sul caso dell'Utri, ma sicuramente sul caso Ultra. Però adesso parliamo appunto di Ultra. 50.000 euro di multa, questo costano alla Roma i cori dei suoi tifosi contro i napoletani gli striscioni in favore dell'Ultra De Santis durante la gara con la Juve. E questa è la sentenza del giudice sportivo che ha squalificato per un turno condizionale la curva dell'Atalanta per il lancio di banane nella gara contro il Milan. E vedo adesso una notizia invece di tennis, vediamo se la recupero, eccola qua. Dopo Francesca Schiavone anche Flavia Pennetta, riguarda il tennis, si è qualificata per il secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. La 32enne brindisina, numero 12 del tennis mondiale, ha battuto l'austriaca Yvonne Moisburger, numero 30. La prossima avversaria della Pennetta sarà la vincente del match che poi si opporrà domani. Porrà domani la russa Anastasia Pavluchenkova, scusate la difficoltà della pronuncia, e la svizzera Belinda Bencic. Bene, a questo punto ci prendiamo una pausa per aggiornare chi sta viaggiando. Ricordatevi che c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vedo qualcuno che già ha colto la notizia all'istante chiedendo: la Roma pagherà 50.000 euro di multa, a chi vanno i soldi di queste multe? Andrea da Chiusi. Adesso cerchiamo, vediamo entro la fine della puntata, di dare una risposta ad Andrea. Anche voi, se già lo sapete, potete naturalmente scrivere su Effetto Notte oppure agli sms al 349-238-6666. Vi ricordo, prima di affrontare il prossimo argomento, quali sono i titoli dei fatti principali. Expo Renzi dice: ci metto la faccia, intanto nomina Cantone a capo della task force anticorruzione e conferma la fiducia al commissario dell'esposizione Sala. Oggi intanto ci sono state le prime ammissioni degli arrestati. Immigrazione: affonda un barcone a sud di Lampedusa con 440 persone a bordo, almeno 14 morti, 200 i dispersi, e Alfano lamenta: l'Europa non ci aiuta. Per l'Italia, Palazzo Chigi annuncia importanti contatti con la compagnia araba Etihad. Per le riforme, Berlusconi ci ripensa e dice: Renzi ha tradito, e aggiunge: la riforma del Senato è un pasticcio. La crisi ucraina: l'Europa decide nuove sanzioni e Mosca minaccia di tagliare il gas a Kiev. E poi le studentesse rapite in Nigeria. In un video il gruppo integrista Boko Haram propone di scambiarle con i prigionieri appartenenti al gruppo. Per gli ultra alla Roma, dicevamo, multa di 50.000 euro per i cori dei suoi tifosi contro i napoletani e gli striscioni in favore dell'ultra De Santis. E adesso parliamo, vi dicevo appunto, di questa ennesima tragedia che si è consumata al largo di Lampedusa. Sappiamo che ci sono costantemente degli sbarchi, costantemente tentativi anche di molti migranti di fuggire dai loro paesi, spesso in guerra, spesso in gravi difficoltà, di fuggire. Noi siamo naturalmente lì nel Mediterraneo, il primo approdo abbastanza sicuro, non nel senso delle acque che non provocano morti, come abbiamo visto ancora una volta, ma da lì poi possono raggiungere anche vari altri paesi d'Europa. Bene, allora su questo argomento tra pochissimo sentiremo la sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini, che è sicuramente costantemente coinvolta in quello che succede. Forse c'è un problema di collegamento ancora con Giusi Nicolini. E intanto sentiamo invece, Michele Cercone, buonasera Cercone. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Portavoce di Cecilia Malmström, che è la commissaria europea agli affari interni per l'immigrazione. Allora poi chiederemo appunto qual è la situazione alla sindaca di Lampedusa, ma intanto lei ha sentito, Cercone, e non è una storia di oggi, no? L'Italia lamenta da tanto tempo che non ci sia un aiuto da parte dell'Unione Europea, che alla fine ci sono tante parole, tante promesse, tanta compartecipazione emotiva, ma poi alla fine l'Italia si ritrova da sola a gestire questo flusso enorme migratorio. Ancora si dice che tanti altri aspettano di prendere la strada per l'Italia. Ma guardi, io farei prima di tutto una distinzione, perché come anche le autorità italiane a più riprese hanno assolutamente affermato, il ruolo della Commissione europea, che è l'esecutivo tra le istituzioni dell'Unione europea, è sempre stato molto chiaro e il sostegno all'Italia non è mai mancato. Se si è trattato di sostegno economico, finanziario, attraverso le missioni Frontex e attraverso tutta una serie di strutture operative che stanno aiutando, mentre noi parliamo, l'Italia nei suoi sforzi. È vero però, e va riconosciuto, che a livello di Stati membri che hanno la competenza per stabilire, per esempio, l'eventuale possibilità di ripartire quote di rifugiati o di migranti, quelle espressioni di solidarietà che abbiamo sentito dopo Lampedusa non si sono tradotte in fatti concreti, ed è questo che la commissaria Malmström ha voluto sottolineare oggi nell'apprendere la notizia di questa ennesima tragedia, e ha insistito perché la questione venga discussa al prossimo Consiglio dei Ministri degli Interni il 5 giugno, proprio perché gli Stati membri devono chiarire le loro posizioni e dire con grande concretezza se e come intendono sviluppare una politica comune per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. È un problema europeo, non può essere un problema italiano, greco, maltese o di un singolo paese, e dunque va affrontato a livello europeo, ma con i fatti, non soltanto con le parole. Adesso poi ci ritorniamo, Michele Cercone, su questa cosa. Sentiamo intanto, siamo riusciti allora a raggiungere la sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini, che ha un ruolo di grandissima importanza, deve essere sicuramente persona di grande tenacia, di grande coraggio, di grande sensibilità, di grande capacità anche gestionale e resistenza. Nicolini, buonasera. buonasera a voi. Buonasera. Quindi la situazione al momento intanto qual è? Perché Alfano aveva annunciato oggi che stavano andando navi italiane a recuperare i morti, sì, e anche a, sì, ad accogliere anche i superstiti. I superstiti sono diretti in Sicilia, non arriveranno a Lampedusa, perché noi purtroppo in questo momento abbiamo il centro d'accoglienza ancora chiuso, perché ci sono lavori in corso per la ristrutturazione di due padiglioni che si erano incendiati nel 2011. Ancora adesso sono chiusi questi padiglioni per l'incendio, sì, del 2011? Sì, i lavori sono abbastanza avanti, però è ancora chiuso il centro. In questo momento Lampedusa accoglie soltanto persone che hanno bisogno di immediato soccorso sanitario, allora vengono trasportati qui con eli soccorso, ma non dormono mai qui, non rimangono mai qui. Quindi la situazione dell'isola, che abbiamo visto tante volte anche nel passato come una situazione esplosiva, al momento qual è? È di un'insolita calma. Ah. Sì, di un'insolita calma. L'emergenza da Lampedusa è stata spostata però in Sicilia. A me a volte fa anche meraviglia vedere come una regione, comuni grandi, attrezzati, siano preoccupati e gridino all'emergenza. Insomma, quello che sta in questo momento avvenendo sulle coste sud-orientali della Sicilia noi l'abbiamo vissuto per anni e da soli, e questo dovrebbe fare riflettere un po'. Senta, Sindaca Nicolini, le sottopongo un messaggio di un ascoltatore che si chiama Eddie da Milano, scrive, e poi risponde a lei, dice: ma siamo matti, a 150 chilometri da Lampedusa affonda un barcone, noi cosa c'entriamo a questo punto? Perché i nostri guardacoste non vanno a raccogliere i clandestini anche al largo dell'Australia? Buonismo senza senso. Lei, che queste cose le ha vissute sulla sua pelle per tanto tempo, cosa risponderebbe? Sono le regole del soccorso in mare. Sono le regole del soccorso in mare, chi chiede aiuto in mare deve essere salvato. C'è una convenzione internazionale che regola il soccorso in mare. Se fosse stato un turista italiano che chiedeva aiuto a 100 miglia da Lampedusa, come ci si dovrebbe comportare allora? Senta, c'è in collegamento anche Michele Cercone, che è portavoce della commissaria europea agli affari interni per l'immigrazione, Cecilia Malmström, diceva che in realtà l'Unione Europea collabora e aiuta l'Italia nella gestione dei flussi migratori. Lei ne ha esperienza, è d'accordo? Allora, è vero che l'Europa finanzia le nostre operazioni con Frontex, pattuglia anche il Mediterraneo, anche se non a fini di salvataggio, quello che l'Europa dovrebbe però fare è non limitarsi ad aiutare o a delegare all'Italia questa partita del soccorso a mare, ma sentire la responsabilità di queste morti come effetti diretti delle politiche di chiusura. Quindi cominciare a capire come dare la possibilità a queste persone di chiedere asilo senza mettersi nelle mani della criminalità organizzata, con tutti gli effetti che sono ordinari, che non sono affatto straordinari. I naufragi sono ordinari, purtroppo. Michele Cercone, come risponde a questo appello? Guardi, innanzitutto salutando il sindaco, che ho avuto l'occasione di conoscere, sinceramente gli sforzi degli abitanti di Lampedusa vanno elogiati in ogni modo e in ogni davvero però prendendo ogni opportunità, e non posso che dar seguito e dar ragione alle sue parole, che sono quello che poi noi abbiamo messo sul tavolo dei ministri europei da molti mesi. Il modo di portare queste persone in maniera sicura in Europa c'è, e si chiama reinstallazione. Non è una parola strana, significa semplicemente andare nei campi profughi dove queste persone si trovano e riportarli in Europa attraverso dei voli, per esempio nell'ambito di progetti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. Purtroppo si fa poco, perché in Europa nel 2013 sono state reinstallate soltanto circa 5.000 persone. Però basta immaginare uno sforzo comune e congiunto degli Stati membri, qualche migliaia soltanto di rifugiati per Stato membro, su 28 Stati membri, e potremmo già fare un'enorme differenza, evitare molte morti e diminuire la pressione migratoria. Questo la Commissione europea lo finanzia all'altezza di circa 6.000 euro per rifugiato che viene reinstallato dagli Stati membri, ma la scelta purtroppo di fare questa attività è una scelta che è basata sulla volontà politica dello Stato membro. Come Commissione europea noi non possiamo obbligarli, però è lì che bisogna agire per creare quella pressione, quella massa critica che obblighi tutti a sedersi intorno a un tavolo e a dare disponibilità per questo tipo di reinstallazione. Ma dottor Cercone, sarà la volta buona questa? Perché io ho un elenco lunghissimo, lunghissimo di naufragi, di morti, a migliaia e migliaia, l'ultimo, il più grave, quello addirittura dal dopoguerra, il più tragico, del 3 ottobre scorso, 366 morti, direi che forse sedersi intorno a un tavolo era una cosa che c'era da fare già da tempo e si spera che insomma la cosa parta. Guardi, il discorso è anche questo, che non c'è una soluzione semplice per un problema così complesso e ci sono varie facce di questo problema. Quella della reinstallazione, quella di evitare questi viaggi è uno, ma l'altra che è cruciale è quella del dialogo e della cooperazione con i paesi di origine e transito. Come Commissione europea noi abbiamo attivato questo canale con la Tunisia, con il Marocco, abbiamo concluso un accordo di riammissione con la Turchia, quindi le cose stanno avanzando. Resta però un enorme problema che è quello della Libia e lì purtroppo non è una questione di volontà politica, è una questione di controparte, è una questione di un paese, di un'area territoriale in cui non c'è controllo, non ci sono istituzioni con cui confrontarsi, quindi lì va ricostruito mattone dopo mattone un sistema di governo che poi permetta di fare accordi o comunque arrivare a una gestione dei flussi. Purtroppo l'instabilità politica in Libia è un problema che non si risolve nel medio tempo, bisognerà lavorare per arrivare nel lungo termine. Anche lì serve uno sforzo che nessun paese da solo può mettere in campo, serve l'insieme degli stati membri e serve più iniziativa, più proattività. Anche questo sarà discusso e sarà messo sul tavolo dei ministri e degli interni agli inizi di giugno, ma ripeto, purtroppo i tempi di soluzione di questi problemi che sono ciclici ma sono anche enormi, viste le proporzioni, non possono essere brevi e non ci sono singole soluzioni. Bisogna muoversi in maniera parallela su vari approcci. E questo è chiarissimo, dottor Cercone, appunto, un problema enorme, difficile da gestire, non c'è un'unica soluzione, non un solo paese se ne può occupare, quindi a maggior ragione, insomma, ci vuole un aiuto sia per il bene di queste persone che scappano dai loro paesi, sia anche per l'Italia che da sola non ce la può fare. Quindi contiamo su di lei, Michele Cercone, visto che è portavoce di Cecilia Malmstrom. Ma certo, volevo però aggiungere una cosa, perché non voglio lasciare gli ascoltatori con l'impressione che siano soltanto buone parole o una questione di così ottimismo della volontà. L'Italia, per chiarire, nel periodo 2007-2013 ha ricevuto quasi mezzo miliardo di euro di fondi europei per la gestione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo e per il periodo 2014-2020 ne riceverà 350 milioni di euro sempre, più 30 milioni bloccati subito dopo l'emergenza di Lampedusa, due missioni Frontex prolungate fino a settembre, più una serie di strumenti tecnologici e di assistenza per i richiedenti asilo che oggettivamente rappresenta un pacchetto di misure concrete da parte della Commissione europea. Ripeto, per quanto riguarda gli Stati membri, siamo d'accordo sul fatto che vogliamo vedere da parte loro più concretezza e meno parole ed è per questo che ci batteremo sicuramente a fianco dell'Italia in sede di Consiglio. Grazie Michele Cercone, giusto qualche secondo se volesse dare qualche osservazione e commento Giusy Nicolini, proprio pochi sì, secondi. No, a proposito, sono perfettamente d'accordo con il dottor Cercone che stimo tantissimo e che saluto anch'io. E l'unica cosa che io mi permetto di aggiungere, è vero che la situazione della Libia è pesante, difficile, irrisolvibile a medio termine, però è vero che le rotte possono cambiare. Se l'Europa, se gli Stati membri si mettessero in testa di governarli questi processi piuttosto che subirli e gridare all'emergenza che di fatto non c'è, perché è un flusso questo epocale che non finisce domani, che non è iniziato ieri, probabilmente si potrebbe lavorare su altri paesi del Maghreb. E di questo poi avremo modo di parlare. Intanto ringrazio moltissimo anche lei, Giusy Nicolini, grazie per essere stata qui in collegamento. Effetto Notte, grazie, buona continuazione. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Riprendiamo allora il filo delle notizie, dei discorsi, dei temi che stavo trattando. Vedo che c'è una certa, un certo coinvolgimento anche sulla questione dell'immigrazione, della nuova tragedia di oggi. Luigi dice: in questo modo però si incentiva l'immigrazione clandestina. Tina, di altra natura, il suo messaggio dice: di quelli che non possono raggiungere i campi profughi ce ne freghiamo. Massimo da Ravenna scrive: salvare dei naufraghi è buonismo? Serve una convenzione internazionale, non basta l'umanità. Magari chi parla di buonismo dice blatera poi di radici cristiani. Insomma, tanti messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e il 349-238-6666. Vi ricordo brevemente le notizie di oggi. La strage di migranti, almeno 14 morti e 200 dispersi a sud di Lampedusa, affondato un barcone con 400 persone a bordo, e Alfano lamenta che l'Europa non sta aiutando, anche se avete sentito poco fa il portavoce della commissaria europea Malmström, dice in realtà l'Unione Europea c'è, bisogna però sedersi, lo dice all'inizio di giugno, intorno a un tavolo e capire che non si può un solo paese caricare naturalmente di tutto questo, al di là degli aspetti economici. Berlusconi sulle riforme ci ripensa, Renzi ha tradito, dice il premier, fa campagna a sud, dice con l'Europa una mano all'Italia. Il governo spinge su l'Italia avanti a chiudere con Etihad. Per quanto riguarda l'Expo, Renzi commenta: ci metto la faccia, intanto nomina Cantone a capo della task force anticorruzione e conferma la fiducia al commissario dell'esposizione Sala. Per quanto riguarda la crisi ucraina, l'Europa decide nuove sanzioni per Mosca e Mosca risponde minacciando di tagliare il gas a Kiev. Le studentesse rapite in Nigeria, in un video il gruppo integralista Boko Haram propone di scambiarle con i prigionieri appartenenti al gruppo. E tra poco proprio di questo argomento parleremo con l'ospite che sto per salutare, ma intanto ci ha raggiunto Dario Ricci, perché c'era un ascoltatore che chiedeva: ma questi soldi, la multa comminata alla Roma, 50.000 euro per i cori dei tifosi oltraggiosi eccetera eccetera, a chi andranno? Ed ecco che subito spunta dalla lampada Dario Ricci, che... Quindi sono un genio. Quindi questa è un bel complimento per darvi questa notizia. Dalla riunione di Lega Calcio del 20 novembre 2012, questi soldi, gli importi delle multe, sono destinate in collaborazione con la TIM e il Centro Sportivo Italiano a finanziare il calcio degli oratori. Cioè, si è stato creato un apposito fondo, costituito proprio dalla Lega di Serie A e dalla TIM, nell'ambito del progetto Il Calcio è di chi lo ama, finalizzato a promuovere i valori positivi dello sport e del calcio. E quindi da questa collaborazione è nata anche la Junior Team Cup e il calcio negli oratori, che dal 2013 coinvolge bambini, ragazzi, insomma. Quindi mi sembra una buona idea. Io convoglierei molti questi soldi anche allo sport femminile, per esempio, no? Lo sport di base non ha distinzioni di genere. Il calcio, sapete che adesso anche le ragazze iniziano presto a giocare a calcio, è una passione che le prende anche da piccole. Grazie Dario Ricci, allora la risposta ce l'abbiamo, soddisfatto. Torno nella lampada. Torno pure nella lampada. Invece adesso saluto e ringrazio di essere in collegamento il professor Romano Prodi. Buonasera professore. Buonasera a lei e a tutti. Professor Romano Prodi, che vorrei appunto coinvolgere su questa tragedia delle ragazze nigeriane, studentesse nigeriane, sapete circa 300 rapite in più momenti, ma soprattutto ad aprile in Nigeria dal movimento islamico estremista Boko Haram, che nei giorni scorsi attraverso un video in cui parlava il leader di questo gruppo terrorista aveva comunicato che aveva rapito le ragazze adolescenti poiché non dovevano permettersi di studiare e di essere magari contaminate dalla cultura occidentale, annunciando di volerle vendere, vi ricordate, come schiave al mercato, un po' come bestiame, al prezzo di $12 l'una. Si tratta di un fatto orrendo, abominevole, che però fortunatamente ha suscitato una grande ondata emotiva a livello internazionale, una grande mobilitazione anche attraverso i media, social network. Sapete che anche Michelle Obama è intervenuta, ha lanciato una campagna mondiale su Twitter, e qualcuno qualcosa di concreto forse sta facendo, Stati Uniti e Gran Bretagna per esempio. Ma visto che il professor Prodi è un grande esperto di Africa, ha anche lavorato a nome dell'ONU per missioni di pace in Africa, è stato nominato inviato speciale dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon per il Sahel. Professore, un suo commento intanto su questa vicenda. Ma senta, la vicenda è tragica e ripugnante proprio, però purtroppo è una vicenda che non mi sorprende. C'è questo enorme territorio africano con frontiere porose, accordi stati fra gli scarsi fra gli stati, governi che controllano il paese solo limitatamente. C'è proprio un ambiente in cui il terrorismo prospera, si sposta, si muove, e fa quello che vuole. Quindi io penso che purtroppo episodi criminosi se ne ripeteranno tanto anche in futuro. Ecco, sono abbastanza pessimista. Il nord della Nigeria vede il governo estremamente lontano, no? Boko Haram ha rifornimenti e armi da tutto. Dopo la guerra di Libia, militari e munizioni e armi si sono diffuse in tutto il territorio e quindi veramente c'è la situazione fuori controllo. Ecco. Professore, però la Nigeria è una nazione federale, nel senso fatta di 36 stati, se non sbaglio, che sono un po' però una cozzaglia tra di loro, diverse culture, anche le lingue cambiano, certo. No? E quindi difficile tenerli insieme. E poi in Africa sta avanzando l'Islam integralista. Ma a proposito di queste ragazze, giusto, forse a parte la solidarietà internazionale, Gran Bretagna, Stati Uniti e forse un po' anche la Francia hanno mandato forze di intelligence per cercare di individuare il posto in cui sono tenute, certo, e liberarle. E di capire soprattutto. Certo. E lei è ottimista su questo? Cioè, cosa può fare anche il resto della comunità internazionale in un caso come questo per agire concretamente, al di là delle parole? Voglio dire, proprio quando si manda l'intelligence vuol dire che si ha bisogno di conoscenze, quindi da me può avere poco aiuto perché stando in Italia conoscenze io solo le posso descrivere l'ambiente in cui tutto questo si svolge e le forze in campo, ma quello che avviene nella vicenda specifica è veramente misterioso. Certamente è studiata assolutamente l'idea di rapire delle adolescenti da una scuola, è il modo di creare una impressione mediatica enorme e ci sono riusciti sotto questo aspetto, capisci? E certamente adesso Boko Haram è diventato celebre in tutto il mondo. Chi conosceva quell'area sapeva benissimo quale capacità organizzativa ha, i mezzi, le risorse, i legami con i paesi vicini, con il Chad, il Mali, con il Niger, con la Mauritania. E questa è proprio come una specie di grande zona franca, capisce? E allora sul singolo caso io spero che l'intelligence trovi un filo, ma certo non è che possiamo dire che il governo nigeriano controlla l'area e quindi è arbitro di questa situazione. Anzi, perché? Pare che sapesse, fosse stato informato che sarebbe avvenuto questo rapimento diffuso e però non hanno voluto, non hanno potuto, non hanno le forze necessarie. Ma senta, tutti i giorni in quelle zone succedono tragedie, attentati, bombe nelle chiese, nelle scuole, cioè, è un fatto assolutamente quotidiano, purtroppo non è una tragedia isolata questa. Non c'è sensibilità in Europa, non c'è la coscienza della gravità dei problemi di queste aree, capisci? E per quello che le dico, non dico che io mi aspettassi questa, perché questa è veramente al di là di ogni immaginazione, però essendo attento agli avvenimenti quotidiani è una routine terribile questa del terrorismo. D'altra parte, episodi bellici, tensioni, una povertà enorme, soprattutto la guerra di Libia che ha squilibrato tutti i rapporti economici e politici dell'area, in cui ex militari dell'esercito libico che venivano dal deserto sono tornati alle loro case senza più il salario, pieni di armi moderne. E hanno cominciato a guadagnarsi la vita con economia del tutto illegale, droga, terrorismo, rapimenti. Questo episodio si svolge in questo quadro. In questo contesto, certo. Professore, mi dica una cosa prima di chiudere. Secondo lei sarebbe opportuno fare questo scambio che i terroristi hanno chiesto, cioè lasciare le ragazze in cambio dei prigionieri loro componenti dell'organizzazione? Non ho idea se questo sia opportuno o meno, quindi devi giudicare qualcuno che conosce i casi specifici e le possibilità di ulteriore ricatto che questi hanno. Certo, certo, potrebbe essere poi una cosa senza fine. D'altra parte capisco anche perché se ci sono centinaia di vite umane il problema si pone in modo enorme, perché a quanto nell'analisi che io percepisco questi hanno un fisso di crudeltà molto forte, non è che, su questo non c'è nessun dubbio. Non giudichiamo con i valori a cui siamo abituati, con i nostri parametri. Professor Romano Prodi, io intanto la ringrazio moltissimo e speriamo che si concluda. Se avremo più informazioni nei prossimi giorni potremo entrare anche nel singolo episodio. Volentieri, volentieri, professore. Grazie intanto. Buonasera. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo le notizie molto brevemente prima del nostro spazio Europa e poi di trattare gli altri argomenti. A proposito di Expo, Renzi dice stop ai delinquenti ma non ai lavori, ci metto la faccia, fiducia al commissario Sala. E poi per l'immigrazione, la nuova tragedia, affonda un barcone a sud di Lampedusa con più di 400 persone a bordo, almeno 14 morti, 200 i dispersi, con il ministro Alfano che lamenta che l'Europa non ci aiuta. E poi per la crisi ucraina l'Europa decide nuove sanzioni per Mosca. E per quanto riguarda le studentesse rapite in Nigeria, abbiamo sentito poco fa in un video il gruppo integralista Boko Haram propone di scambiarle con i prigionieri appartenenti al gruppo. Europa 24 notte. Trasformare il rifiuto in una risorsa per la collettività, questa è la chiave per costruire un circolo virtuoso con l'ambiente. Questo è il messaggio che arriva da Let's Clean Up Europe, Ripuliamo l'Europa, l'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea in corso dal 10 maggio fino al 17 maggio in 28 paesi e legata alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Obiettivo è mobilitare i cittadini a ripulire in prima persona l'ambiente in cui vivono, un'iniziativa alla quale aderisca anche l'Italia grazie al coordinamento del Ministero dell'Ambiente. Sentiamo allora il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti al microfono di Alessandra Schiavi. Noi diamo molta importanza a questa iniziativa. Riteniamo che l'esempio è mettere al centro dell'attenzione pubblica il problema dei rifiuti da una parte, ma soprattutto del vantaggio che si ha a mantenere le città pulite sia fondamentale. Pulire le città vuole dire prima di tutto renderle più vivibili, più belle per chi ci abita, ma vuole dire anche risparmiare risorse, ad esempio, risparmiare soldi proprio, perché se spendiamo meno per pulire le nostre città noi possiamo mettere quelle risorse in altri ambiti, penso al welfare, all'istruzione e ad altri settori che sono importantissimi e che oggi, ahimè, con la crisi economica forse hanno meno risorse di quanto meriterebbero. Per cui noi abbiamo voluto dare un segnale forte, ci impegneremo con tante altre iniziative, ma mi piacerebbe che diventasse una cosa stabile. Come si può creare questo circolo virtuoso, cioè come trasformare il rifiuto anche in una risorsa per la collettività? Lo si fa prima di tutto attraverso la raccolta differenziata. Se fatta bene tende al rifiuto zero, che sarebbe l'ottimale, certo è difficile arrivarci, però con una buona raccolta differenziata ci si va molto vicino. E poi lo si fa affermando un principio, che anche in economia è possibile produrre meno rifiuti. Esiste una teoria che si chiama economia circolare, per cui se io utilizzo anche nei miei percorsi produttivi, nei miei cicli produttivi, materie prime che sono riciclabili durante il percorso produttivo, che comunque danno vita a prodotti che alla fine della loro vita naturale sono anch'essi riciclabili, io ottengo una società con meno rifiuti di quella di oggi e soprattutto utilizzo meno risorse prime, perché il problema è anche che molte risorse non sono infinite, a incominciare dall'acqua. Per tanto tempo l'acqua è stato considerato un bene naturale infinito, poi ci siamo resi conto che utilizziamo molta acqua, la popolazione aumenta e anche quella prima o poi finirà, e così per tante materie. Quindi dobbiamo consumarne meno e farlo in maniera che alla fine del percorso produttivo queste materie possano tornare vive, tornare utilizzabili. Temi che metterete anche al centro del semestre europeo, naturalmente. Sì, questo è uno dei temi principe, uno dei temi fondamentali di cui discuteremo nel semestre europeo, anche perché le stesse imprese si sono rese conto che dall'ambiente si può avere non solo una delle città, dei luoghi più vivibili, ma si può avere anche un'economia più redditizia, cioè l'ambiente serve a produrre crescita e a produrre occupazione. Noi faremo subito all'inizio del nostro semestre europeo una riunione proprio a Milano con tutti i ministri dell'ambiente e tutti i ministri del lavoro per dare il segnale, anche per studiare strumenti operativi che possano incrementare l'occupazione, che è la vera piaga oggi dell'Europa, coniugata con una politica ambientale. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso, come promesso, parliamo degli aggiornamenti sull'Expo, degli interrogatori che ci sono stati oggi, degli arrestati. Tra l'altro un ascoltatore chiedeva chi era Raffaele Cantone, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che adesso da Renzi è stato posto a garantire l'anticorruzione anche all'Expo. Ma c'è Raffaella Calandra per aggiornarci, Raffaella, sugli interrogatori di oggi. Sì, Roberta, allora, prime interrogatorie, devo dire anche prime sostanziali ammissioni da parte degli indagati. C'è chi ha parlato di attività di lobbying, ma c'è anche stato chi esplicitamente ha ammesso che dei biglietti che cercava di nascondere al momento dell'arresto contenevano una sorta di contabilità delle tangenti. È il caso dell'ex esponente UDC Sergio Cattozzo, che ha parlato appunto di questi bigliettini che ha poi consegnato alla Guardia di Finanza nel momento in cui è stato arrestato. Contenevano le tracce di quanto ha dato ad un imprenditore Maltauro, e lo stesso Maltauro, imprenditore edile vicentino, ha in sostanza fatto delle parziali ammissioni su quello che gli è stato contestato anche con video e con immagini, cioè degli incontri, dei pagamenti con buste, secondo l'accusa si tratta del pagamento di tangenti, ma ha chiesto che poi di dare le sue spiegazioni in successivi incontri con i PM. Così anche ha parlato di errori commessi, come la rivelazione di notizie che dovevano restare riservate, lo stesso Angelo Paris, che era il responsabile dei contratti per Expo e che verrà appunto sostituito già domani probabilmente, quando il premier Renzi verrà qui a Milano con i vertici dello stesso Expo. Nessuna ammissione invece da parte dell'ex compagno G, Primo Greganti, da parte di Luigi Grillo e da parte di Frigerio, ossia i politici coinvolti in questa inchiesta Expo. E poi ci saranno naturalmente i prossimi sviluppi nei prossimi giorni. Grazie intanto Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Noi a tra poco.